Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Quando Natale si avvicina, in tutti i paesi di religione cristiana si respira un'atmosfera a metà strada tra magia e consumismo sfrenato. Luci dappertutto, gara a chi fa l'albero più grande e ricco, decorazioni sulle finestre con strane mode meteora che all'improvviso appaiono e scompaiono, come quella abbastanza recente di mettere finti babbi natali che si arrampicano sul balcone. Le vetrine sono un tripudio di offerte, proposte, pacchetti. Si comincia a fare gli auguri a chiunque si incontri, perfino a quelli che magari ti hanno appena rubato il parcheggio. E la corsa agli ultimi acquisti è molto più impegnativa di una maratona. Capitolo a parte, il cibo. Banchetti luculliani si apprestano ad apparire sulle tavole. Fino a Pasqua di solito si va avanti a mangiare panettoni e pandori, come sempre comprati in esubero, complici i prezzi vantaggiosi dopo l'Epifania. Il quadro, qualche volta, viene incorniciato dalla neve, come vuole la migliore tradizione. Tutto questo ha una colonna sonora. Ci sono canzoni che fanno parte delle nostre vite da quando siamo nati e canzoni che sono entrate nelle compilation natalizie con il tempo, scavalcando magari quelle che mantenevano la posizione dai tempi dei nostri nonni. Molti artisti si sono prodigati a comporre la loro personale versione del Natale e la PPL, ente britannico che si occupa del diritto d'autore musicale, ha stilato una classifica delle 10 hit natalizie più suonate nel primo decennio degli anni 2000. In decima posizione Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow di Dean Martin. In ottava posizione c'è Stop the Cavalry di John Lewis. Al settimo posto invece c'è Driving Home for Christmas di Chris Rea. Mentre al sesto compare Do They Know It's Christmas di Band Aid. E si continua, posizione numero 5, I Wish It Could Be Christmas Every Day, Wizard. Al numero 4, Merry Christmas Everybody, Slade. Sul podio ci sono al terzo posto Fairy Tale of New York dei Pogues. Al secondo, Last Christmas degli Wham. E al primo posto, naturalmente lei, Mariah Carey. La sua All I Want For Christmas Is You, datata 1994, nel 2006 è diventata anche la suoneria natalizia più venduta di tutti i tempi. Il testo della canzone è semplice e forse anche per questo ha avuto tanta fortuna. La protagonista dichiara di non essere interessata ai regali materiali o alle luci natalizie. L'unica cosa che davvero vuole più di ogni altra è stare con il suo innamorato. Il successo del brano è così straordinario che ne vengono fatti 3 video. Il primo è il più diffuso e conosciuto. Ha il sapore di un video privato fatto per immortalare i momenti natalizi che ogni famiglia vive, come la preparazione dell'albero o la guerra di palle di neve. La seconda versione, ispirata a Nancy Sinatra, mostra la Carey mentre danza in uno studio televisivo in una atmosfera che evoca gli anni 60. Questo video, che è stato girato per la trasmissione italiana Regalo di Natale, è interamente in bianco e nero. E poi c'è il terzo video, una versione a cartone animato realizzata nel 2000. La regia è accreditata a Kris Kringle, vale a dire Babbo Natale nella tradizione tedesca. Per dire, il protagonista del film Miracolo sulla 34esima strada, film natalizio per eccellenza, si chiama proprio Kris Kringle. Si è vociferato a lungo a proposito di un'ipotetica copiatura del brano da parte di Mariah, che avrebbe, secondo questa tesi, rielaborato una melodia già esistente. Non è così. E perfino il New Yorker gliene ha dato atto. Quello che ha fatto la Carey con la sua All I Want For Christmas Is You è un piccolo capolavoro. La canzone è una delle poche aggiunte moderne ai canoni natalizi. Cantante, attrice, produttrice, Mariah Carey ha venduto fino ad oggi più di 200 milioni di dischi in tutto il mondo. L'estensione della sua voce è notevole, si ritiene di 5 ottave. Il suo talento e la sua personalità l'hanno resa protagonista delle scene. Se sul piano commerciale ha un'enorme fortuna, la stima degli addetti ai lavori non le manca, come dimostrano i suoi numerosi premi. 5 Grammy Award, 17 World Music Award, il riconoscimento come artista del millennio. Oggi ha i magnifici destini. Vogliamo raccontarvi la sua sorprendente storia. Un'autentica diva del pop, con singoli che si sono contesi le prime posizioni con nomi del calibro di Madonna. Mariah Carey, capelli lunghissimi, sorriso sempre stampato sulle labbra e la disponibilità di chi non dimentica da dove è arrivato, ha alle spalle una storia che non è sempre stata rose e fiori. La sua vita incomincia il 27 marzo 1970 ad Huntington, area metropolitana di New York. È la terza in famiglia e i suoi genitori le mettono il nome Mariah per via della canzone In the Cold Wind Mariah, tratta dal musical Paint Your Wagon. La mamma, Patricia Hickey, è una cantante lirica e preparatrice vocale di origini irlandesi, mentre il papà, Alfred Roy Carey, è un ingegnere aerospaziale afroamericano che deve i suoi tratti somatici alle sue radici venezuelane. Appare immediatamente chiaro che il destino di Mariah c'entra in un modo o nell'altro con la musica. Ascoltavo e riascoltavo il Rigoletto continuamente. Ogni volta provavo a cantarlo in modo diverso, sognando di avere una parte. Sapevo tutte le parole a memoria, anche se erano in italiano. Mi ero fatta spiegare cosa volessero dire, perché non ci capivo niente. Per me le parole erano soltanto un suono, però le cantavo e ricantavo. Patricia, la mamma di Mariah, rimane impressionata quando sente per la prima volta sua figlia che canta il Rigoletto. È una bambina, come può essere riuscita a sentirlo in modo così profondo da riuscire a riprodurre suoni e parole giusti al momento giusto? Il suo orecchio sembrerebbe proprio straordinario e Patricia fa di tutto perché sua figlia coltivi con lei, tanto per cominciare, questo suo talento. La situazione familiare intanto non è così facile da gestire. Un matrimonio misto negli anni 70 non è visto bene neanche in America, che pure vive ormai da decenni ondate migratorie da diversi paesi del mondo. Una donna bianca irlandese e un uomo di colore di origini venezuelane insieme provocano ancora commenti. Vicini che con loro non vogliono avere niente a che fare, amici che preferiscono non frequentarli in pubblico per non dare troppo nell'occhio, passanti razzisti che fanno volare persino insulti. Me le ricordo bene le gomitate che certe mogli davano ai mariti sui tram per indicargli mamma e papà. Loro hanno cercato di proteggermi da tutto questo, ma non potevano vederlo. E poi la mia faccia, i miei colori, tutto in me parlava di questa unione che a molta gente ancora non andava giù. A scuola Mariah Carey è allegra e socievole. Qualche insegnante però si comporta come i razzisti che prendono in giro i suoi genitori. Una volta a scuola ci avevano chiesto di disegnare il papà e io l'ho fatto. Con naturalezza ho preso il pastello marrone e gli ho fatto la faccia marrone. Si è avvicinata la maestra e ha attirato l'attenzione su di me, chiedendomi perché l'avessi fatto. E io, con la stessa naturalezza con cui avevo fatto il disegno, ho risposto che mio papà era marrone. Lo vedevo così. Solo che i compagni avevano già iniziato a prendermi in giro per quel disegno. Ecco, io credo che un buon insegnante, questo non dovrebbe mai farlo, un buon insegnante dovrebbe essere in grado di spiegarla la diversità e di insegnare che è una ricchezza, non un handicap. Le intimidazioni si fanno sempre più frequenti. Minacce scritte sul vetro della macchina di papà, perfino sulla porta di casa. Roy e Patricia, intellettuale e riflessivo lui, impetuosa e spensierata lei, hanno già i loro problemi a mantenere una relazione stabile. Continuano a litigare, innescando un meccanismo di tensione che anche i ragazzi percepiscono chiaramente. E la pressione esterna è la goccia che fa traboccare il vaso. Si separano e si dividono i figli. Allison con papà, Mariah e suo fratello Morgan con la mamma. Mia madre affittava sempre le case. Non avevamo molti soldi e di certo non potevamo permetterci di comprarne una. Per anni abbiamo continuato a spostarci da una casa all'altra e per lunghi periodi siamo anche stati a casa di amici. C'è una costante nella vita di Mariah Carey, una presenza che la segue da quando è nata e che si porta dietro ovunque vada: la musica. Già da bambina canta continuamente e di tutto, dai jingle delle pubblicità alle opere come il Rigoletto, che impara a memoria e riproduce fedelmente. Sua madre la sprona, vuole che sua figlia porti avanti questa voce meravigliosa che ha. Se si è così fortunati ad avere un talento, non bisogna sprecarlo, le ripete sempre. È stata mia madre a insegnarmi a cantare, me lo ricordo benissimo. Ci sedevamo in salotto dopo la scuola e lei mi dava lezioni di canto. La musica mi serviva moltissimo. Mi sono buttata nella musica con tutta l'anima, anche perché il rapporto con mio padre e con mia sorella diventava sempre più complicato. Erano lontani, non ci sentivamo mai. Sentivo di averli persi. Caos interiore e difficoltà nei rapporti familiari. Sono questi i temi di cui Mariah Carey inizia a scrivere. È solo una ragazzina, ma la sua spiccata sensibilità la porta a sentire l'esigenza di mettere nero su bianco i suoi sentimenti e le sue emozioni. Le sembra in qualche modo di esorcizzarli, trasformandoli in canzoni. Verso i 13-14 anni ho cominciato a fare le serate nei locali della zona. Mia madre veniva con me, naturalmente, ero solo una ragazzina, ma tutti mi dicevano che avevo una voce commerciale, proprio così, commerciale. Mi consigliavano di provarci seriamente con la musica. Mariah ha una vita molto diversa da quella dei suoi coetanei. Mentre gli altri vanno a scuola e qualche volta escono la sera, magari per andare al cinema, lei fa tardi spesso perché finisce di cantare dopo mezzanotte. È felice. Non le importa se la mattina fa più fatica ad alzarsi, ormai sente che la musica è la sua strada. Per il grande salto, il passo principale è trasferirsi a New York. Mio fratello Morgan, che ha diversi anni più di me, viveva già a Manhattan e aveva tanti contatti con il mondo della discografia. Così l'ho chiamato e lui ha detto che sarebbe stato contento di ospitarmi e di presentarmi anche un po' di gente. Il musicista Gavin Christopher, amico di Morgan, appena sente cantare Mariah, rimane impressionato dalla sua voce e la introduce nell'ambiente. Facendosi carico di lei, la propone a diverse case discografiche, ma nessuna sembra essere intenzionata a scommettere su una ragazza di 15 anni che, per quanto possa sembrare brava, rischia di rivelarsi un flop. Ho iniziato a far sentire in giro un po' delle canzoni che avevo scritto. Gavin mi aveva presentato Ben Margulis e con lui ho composto altri pezzi nuovi. Lavoravamo nella fabbrica di mobili di suo padre, dove lui aveva allestito un piccolo studio. All'inizio vivevo ancora con mia madre a Long Island e facevo tutte le settimane avanti e indietro. Era faticoso, pesante, ma ci credevo sempre di più. Il sogno della Carey è fare la cantante, ma a New York sono in molti ad avere le stesse speranze. Se da un lato la città è un vortice travolgente dove tutto sembra possibile, dall'altro il costo della vita e la concorrenza che aumenta ogni giorno rendono più difficile sbarcare il lunario. Mariah si adatta a tutto. Fa la cameriera, la guardarobiera e intanto completa il corso da estetista. Quando Margulis le dice che la cantante portoricana Brenda Starr sta cercando una nuova corista, si presenta all'audizione senza pensarci due volte. Ho fatto il provino e alla fine Brenda mi ha chiesto se stavo tentando di rubarle il posto. È stato l'inizio di tutto. Voglio dire, qualcuno incominciava a pagarmi per cantare. Comunque non ho smesso di fare la cameriera finché i concerti non hanno cominciato a diventare tanti. Brenda è famosa e ben inserita, la invitano alle feste più belle di New York e lei non manca mai, soprattutto quando sono party organizzati dagli addetti ai lavori del mondo della musica. Divertimento e pubbliche relazioni, impossibile non andare. Un giorno, durante le prove, chiede a Mariah se vuole accompagnarla. La ragazza si tocca nervosamente i lunghi capelli, emozionata e ansiosa nello stesso tempo. Poi dice di sì. Ancora non lo può sapere, ma è la svolta. A quella festa ci sarà anche il suo primo magnifico incontro del destino. Tommy Mottola. Nella famiglia Mottola, cognome che rivela le origini italiane, la musica ha un ruolo centrale. Tommy, infatti, è il cugino del più anziano Tony, compagno di infanzia e amico fraterno di Frank Sinatra, con cui si è esibito in migliaia di concerti, nonché storico collaboratore di Perry Como. Tommy invece, classe 1949, è un produttore, coproprietario dell'etichetta Casablanca Records. Ha guidato per quasi 15 anni la Sony, fino a quando è stato licenziato per colpa di Michael Jackson, che lo ha accusato di avere boicottato un suo album e di sfruttare i cantanti di colore per guadagnare di più. Mentore e talent scout, Mottola ha un gran fiuto per i successi. Tra i tanti della sua scuderia si possono citare Hall & Oates, Carly Simon, John Mellencamp, Diana Ross, Taylor Dane. Ho visto per la prima volta Mariah a una festa. Lei era con Brenda Starr, in quel periodo lavorava come sua corista. Mi ha colpito immediatamente. Era molto più giovane di me. Era bellissima. Nonostante i 20 anni di differenza, anche la Carey trova Mottola molto affascinante. Non ha idea di chi sia, non immagina che lavoro faccia e tantomeno la sua posizione. È ingenua, completamente incapace di vendersi. Brenda Starr, invece, che ha una certa esperienza ed è una sostenitrice del talento di Mariah, dice a Mottola che deve assolutamente sentire un po' delle sue canzoni. Lui, che scouting lo fa di mestiere, dice subito di sì e subito si sbilancia. Ho detto a Mariah quello che pensavo, e cioè che il suo sarebbe diventato il disco dell'anno. Difficilmente il mio intuito ha sbagliato, sentivo che avrebbe avuto un'incredibile fortuna. I magnifici destini. Ai magnifici destini siamo alla fine degli anni Ottanta e Mariah Carey sta per diventare la star mondiale che conosciamo. Figlia di Patricia, cantante di origini irlandesi, e di Roy, ingegnere venezuelano, ha vissuto il razzismo in prima persona. Dopo il divorzio dei suoi genitori, mentre sua sorella è rimasta con papà, lei ha continuato a vivere con sua madre e suo fratello Morgan, al quale è attaccatissima. È stato proprio Morgan a presentarle un po' di gente nell'ambiente musicale. E contatto dopo contatto, Mariah è finita a fare la corista della portoricana Brenda Starr. Per via della sua storia familiare, la Carey, quando incontra qualcuno che viene da altri paesi, fa sempre mille domande. È quello che succede anche la prima volta che a una festa si ritrova a chiacchierare con Tommy Mottola. Che Tommy fosse un produttore discografico l'ho scoperto dopo un po'. All'inizio abbiamo parlato a lungo delle sue origini italiane. Aveva una storia simile alla mia. Anche lui ha subito alcune discriminazioni, anche se la storia degli italiani era diversa. Dopo aver sentito le canzoni di Mariah, Tony Mottola decide di farle firmare un contratto con la Sony. E proprio mentre lei sgrana gli occhi di fronte a questa proposta, ne arriva un'altra. La Warner Bros. Le offre $500,000. A questo punto Mottola rilancia di $50,000 e se la aggiudica. Sono cifre pazzesche. La Carey, che fino a poco tempo prima faticava a mantenersi con la musica, si ritrova contesa da due delle maggiori case discografiche. Per Mottola è una scommessa. Non può sbagliare. È appena diventato presidente della Sony e deve dimostrare che il suo fiuto non sbaglia. Con Tony si lavorava moltissimo. Mi ha affiancato decine di musicisti e produttori. È un perfezionista. Voleva che il risultato fosse perfetto. Ero distrutta. Facevamo ore e ore di prove al giorno. A volte andavamo avanti anche di notte. Tony voleva avere tutto sotto controllo. Per me è stata un'esperienza fantastica, ma molto, molto difficile. Non me la dimenticherò mai. La Carey spera di poter inserire nel suo album di debutto i pezzi che ha scritto con Ben Margelis, ma il giudizio di Mottola è insindacabile. La voce di Mariah era eccezionale, ma i pezzi no. Ne voglio dire, non che fossero brutti, ma per il debutto ci voleva qualcosa di molto più potente. Non potevano usare tutti quei pezzi senza lavorarci. Per questo l'ho affidata ai migliori professionisti, per esempio Narada Walden, che aveva già curato i primi due album di Whitney Houston. Alla fine abbiamo ottenuto solo i 6 brani più belli scritti da Mariah. Volevo che tutto fosse perfetto. Insieme a Walden, Mariah scrive I Don't Wanna Cry, un pezzo che finisce per odiare moltissimo. Non lo sente suo. Non si arriva mai a una conclusione, litiga con Walden su ogni singolo accordo. A pochi giorni dalla stampa finale dell'album, Mottola chiede che nell'album venga inserito anche il pezzo Love Takes Time, destinato in un primo momento a un successivo album. Per l'incisione chiama il secondo magnifico incontro del destino di Mariah Carey, Walter Afanasieff. A differenza di Walden, Afanasieff le piace subito. Lui, una decina di anni più grande, registrato all'anagrafe col nome Vladimir Nikitich Afanasieff, è un grande compositore e si è già fatto conoscere per la colonna sonora di Agente 007 Vendetta Privata, di cui ha scritto il tema. Americano di adozione ma nato a San Paolo, ha un talento e una determinazione che lo porteranno ad avere grande successo con My Heart Will Go On, celeberrimo brano cantato da Celine Dion nel film Titanic. Ma è proprio con Mariah che scopre un nuovo modo di lavorare. Tra i due c'è immediata complicità artistica, tanto che Mottola, che nel frattempo è diventato il fidanzato della sua pupilla, molto spesso è geloso. Niente di cui preoccuparsi comunque, il feeling è solo creativo e sfocia in niente più che una bellissima e duratura amicizia. È sempre stato molto divertente lavorare con Walter. Ci intendevamo alla perfezione fin dall'inizio, ridevamo così tanto. E poi lui mi capiva, sapeva come farmi arrivare alla soluzione giusta. Non è mai stato aggressivo, neanche quando pretendeva di più. A lui, come d'altronde a Tommy, io devo moltissimo. Nel giugno del 1990 esce il primo album della Carey dal titolo omonimo. All'inizio vende poco, ma poi ingrana alla grande. Mariah Carey diventa una stella grazie a 4 singoli estratti dal disco che si piazzano al numero 1 della Billboard Hot 100. Non tutte le recensioni sono favorevoli, ma la maggior parte dei critici trova molto interessante la combinazione di ballate che uniscono pop, R&B e ritmi up-tempo. Arriva anche il disco d'oro e le copie vendute sfiorano i 26 milioni. Avevo una gran voglia di diventare famosa. Guardavo le star e sognavo MTV. Nel 1991, a 21 anni, Mariah Carey passa ufficialmente da ragazza che combatte per far conoscere la sua musica ad autentica rivelazione musicale. Ma proprio adesso che potrebbe rilassarsi un po' e godersi il successo, si impone di lavorare giorno e notte al secondo album. Lo sa già il titolo, Emotions. Mi sono imposta un'etica di lavoro molto dura. I miei ritmi erano massacranti. Ma in realtà lo facevo perché avevo paura. Paura di perdere qualcosa che avevo tanto combattuto per avere. E così ho cominciato a sfornare dischi. Ne facevo uscire uno all'anno. Allucinante. Solo lavoro e riflettori. La mia vita privata non esisteva più. Non è solo la paura di ripiombare nell'anonimato che spinge Mariah a diventare quasi ossessiva nei confronti della musica. Dopo avere praticamente dato in mano il primo album ai produttori che l'hanno resa famosa, è vero, ma che non le hanno concesso di avere voce in capitolo, adesso pretende di avere lei stessa il controllo della situazione. Di decidere quali canzoni vuole e quali no, di proporre gli arrangiamenti che preferisce e di collaborare solo con le persone che le piacciono. Come Mottola, il suo fidanzato, e come Afanasieff, con cui ha trovato una perfetta complicità fin dall'inizio. Io volevo esprimermi nel mio modo, semplice, meno complicato di come lo rendevano quelli che facevano calcoli su qualsiasi cosa. Questo vende, questo no, un po' più pop qua, meno soul là. Non è questo che io voglio dalla musica. La musica è la mia libertà, è la mia possibilità di dire al mondo quello che provo. Ingenua, inconsapevolmente sexy e talentuosa. È così che i media definiscono la nuova star della musica Mariah Carey. Dopo un primo album in cui decide pochissimo, per Emotions Mottola decide di fidarsi e la lascia fare. Lei chiama subito il suo amico Afanasieff e il tempo le dà ragione. Il disco raggiunge la top 10 in molti paesi, dall'Australia al Giappone, passando per Norvegia e Paesi Bassi. Intanto, nonostante le discussioni sul piano creativo, la relazione tra Mottola e Mariah va a gonfie vele. Finora hanno cercato di tenerla nascosta, ma quando lui finalmente ottiene il divorzio da sua moglie e possono sposarsi, ne parlano tutti i giornali. Uno scandalo. Lui il grande produttore che ha già dei figli, lei la giovanissima stella nascente che ha 20 anni di meno. La gente comincia a parlarne. Che Mariah sia un bluff? Che sia uno di quei talenti costruiti a tavolino? Di certo non è come Whitney, dicono in molti paragonandola alla Houston. Il mio talento veniva continuamente messo in discussione. Sentivo la pressione dei critici che si faceva sempre più pesante. Piangevo moltissimo. Io e Tommy ci eravamo innamorati, è vero. Però questo non c'entrava con il fatto che io facessi delle belle canzoni. Era molto doloroso. Ho anche pensato di lasciarlo, ma lo amavo, non era giusto. L'idea che viene alla Carey per fugare ogni dubbio sulla qualità della sua voce è tanto semplice quanto geniale. Un unplugged a MTV, senza aiuto della tecnologia, un palco tutto per lei. In questo modo potrà mettere a tacere anche le voci che dicono che non voglia partire in tour perché non è in grado di cantare dal vivo. Ero nervosa perché avevo tante note alte, ma volevo dimostrare a tutti i costi chi ero. L'Unplugged non solo convince anche gli scettici. Il risultato è così potente che si trasforma in un disco che vende milioni di copie in tutto il mondo. Adesso Mariah è libera di sposare il suo Tommy. Vestito bianco da principessa, cerimonia mediatica e sontuosa a New York, molte star tra gli invitati. È l'inizio di una nuova vita. Ai magnifici destini siamo a metà degli anni 90 e Mariah Carey è in uno splendido momento della sua carriera. Dopo due album di successo, ha messo a tacere le critiche che la volevano incapace di cantare dal vivo con uno storico unplugged a MTV, con il quale ha dimostrato che il suo talento vocale è reale e non un successo costruito a tavolino dal suo mentore, il produttore Tommy Mottola. Già, Tommy Mottola, con lui più grande di 20 anni e divorziato, si è appena sposata. Adesso la sua infanzia, passata a spostarsi con la madre da una casa all'altra, senza soldi e senza possibilità, sembra un ricordo lontano. Vive in una sontuosa villa di 65 stanze e la gente fa fatica a considerarla una ragazza normale. Il suo terzo album, Music Box, diventa in breve tempo il suo più grande successo, 32 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Nel frattempo ha scritto con il suo grande amico Walter Afanasieff quella All I Want For Christmas Is You, destinata a diventare la canzone di Natale più famosa del decennio. Sembra una favola destinata però a scontrarsi presto con la realtà. Tommy non mi faceva uscire di casa. Ci sono diversi tipi di maltrattamenti. Lui era un fine psicologo, mi controllava in tutto. All'inizio lo consideravo semplicemente protettivo. Era quello che cercavo, non avendo avuto un padre. Ma poi ho capito che quello che aveva fatto col mio primo disco, mettermi da parte per decidere tutto, lo stava facendo anche con la mia vita. Ho resistito 3 anni e poi, aiutata dalla sicurezza che mi arrivava dalla mia musica, l'ho lasciato. Me ne sono andata. Mariah Carey non riesce ad affrontare le pressioni di una vita finta che non fa per lei. Non sopporta che la gente possa pensare che lei voglia questa quotidianità da diva, quando invece viene da una realtà modesta e sa cos'è la povertà. Lasciando Mottola, si trova però in una situazione delicata. Ancora sotto contratto con la Sony, ha un ex marito con il quale è finita malissimo e che gestisce la sua carriera. Ho cominciato a sentire l'esigenza di cambiare. Avevo voglia di provare a fare la musica che piaceva a me, il che includeva sperimentazioni che non mi erano mai state concesse prima. Mi sentivo libera, emancipata, indipendente e avevo voglia di ricominciare in un modo nuovo. Mariah, bellissima, lo è sempre stata. Ma adesso che si sente libera, libera anche il suo fisico. I video dell'album Butterfly la mostrano in atteggiamenti meno castigati, più naturali, mai volgari, ma senza dubbio diversi da quei gesti controllati del periodo di Mottola. È felice. Il disco va a gonfie vele, non ha più niente da dimostrare e può aprirsi a nuovi amori non sempre fortunati. Con Derek Jeter, giocatore di baseball degli Yankees, dura poco più di un anno e poi si lasciano per la troppa attenzione mediatica che la loro coppia suscita. Non va meglio con il collega Luis Miguel, che la tradisce. Non sono stata molto fortunata in amore. Forse dipendeva dal fatto che non ho mai risolto il rapporto con mio padre. La mancanza di un uomo è una costante della mia vita. Mi sono abituata a cavarmela da sola. Ma devo ammettere che non sempre è stato facile. Quando mio padre è morto, ho sentito un vuoto dentro. Ma poi, pian piano, anche grazie alla musica, ho cercato di tirarmi su. La vita va avanti, è così. Il singolo When You Believe, cantato con Whitney Houston, se mai ce ne fosse ancora bisogno, è la consacrazione. Mariah Carey, che l'ha scritto come colonna sonora del film Il Principe d'Egitto, vince addirittura l'Oscar. Il 1999 è l'anno del settimo disco e di due magnifici destini, Jay-Z e Snoop Dogg. Tutti e due fanno hip-hop e R&B. Una conquista per Mariah, che sogna queste contaminazioni fin dall'inizio e che, a dire il vero, già era orientata verso questi ritmi dalle prime canzoni. Il disco Rainbow debutta alla posizione numero 2 della Billboard 200. La settimana successiva ci rimane e trascorre un mese e mezzo nei primi 10 posti. Mariah Carey, grazie ai duetti con i maestri della musica black, raggiunge la top 10 dall'Australia al Canada, passando da Svizzera, Austria, Regno Unito e Giappone. Il successo è mondiale. È stata la realizzazione di un sogno. Cantare con Jay-Z e Snoop Dogg, che avevano un'esperienza così diversa dalla mia, mi ha permesso di arrivare ai loro fan, che erano molto diversi dai miei. Mi sono sentita libera di giocare, di esprimermi. L'ho sempre desiderato. Finalmente stavo facendo quello che volevo. Dopo aver ricevuto dalla rivista Billboard il premio come artista del decennio e il World Music Award come artista femminile del millennio, Carey rescinde il suo contratto con la Sony e ne firma un altro da 80 milioni di dollari con la Virgin. Nel luglio 2001 molte fonti cominciano a riportare che la cantante sarebbe alle prese con l'esaurimento fisico ed emotivo a causa del troppo lavoro. Nulla di nuovo per lei, che ha sempre avuto un'etica rigidissima, ma adesso pare davvero troppo. Lei non fa mistero nelle interviste di essere molto stanca. E tutto precipita quando, durante un'apparizione al programma Total Request Live, comincia a distribuire ghiaccioli al pubblico e si spoglia. Successivamente viene condotta in un ospedale psichiatrico di Los Angeles, mentre Cindy Berger, la sua portavoce, annuncia la cancellazione delle interviste per il lancio del nuovo disco a data da destinarsi. Sono in molti ormai a darla per finita, una carriera durata un decennio, fatta più di alti che di bassi, e ora sull'orlo del precipizio. Ma lei ancora una volta, dopo la clinica e alcuni flop, risorge. È anche merito di un magnifico incontro del destino, quello con Jermaine Dupri. Dupri, rapper e produttore americano, collabora con lei per l'album The Emancipation of Mimi, titolo profetico che le porta fortuna. Il disco balza immediatamente al primo posto in classifica e rimane nei primi 10 per diversi mesi. Dupri mi ha insegnato a non mollare mai, perché c'è sempre qualcosa di bello che ti aspetta. La beneficenza, un figlio, un compenso milionario per fare il giudice al talent scout American Idol. E poi ancora la diatriba con Eminem sulla canzone Obsessed, dedicata a uno stalker che in molti identificano proprio con il rapper. Un Razzie Award come peggiore attrice protagonista per il film Glitter e altri prestigiosi riconoscimenti per la sua bravura di attrice. Mariah Carey ha vissuto una, 100, 1000 vite. Da grande star, ma soprattutto da grande donna, che sbaglia, si rialza e non smette di sognare.